Black Lung, The Battle of Brazil, e non si poteva che iniziare così la diretta d'azione di oggi venerdì 13 giugno, giorno dopo che per l'appunto sono iniziati i mondiali di calcio in Brasile e dove poco prima dell'inaugurazione ci sono stati gli ennesimi scontri, pochi rispetto a tutto quello che c'è stato in questo periodo precedente dall'inizio dei mondiali di calcio. Si aspettava chissà cosa, invece poi alla fine tutti davanti alla TV a guardare la partitina di calcio, o perlomeno comunque c'è da dire che c'era un bel imponente, un'imponente forza di polizia, di quella dell'antisommossa, che là in Brasile fa paura, e quindi immagino pure che sia anche molto difficile e pericoloso scendere, sarebbe stato molto pericoloso scendere in strada ieri. Chi lo ha fatto sappiamo come è andato a finire. Allora, questa era giusto l'introduzione, diretta d'azione del venerdì che come tutti i venerdì comprende solo controinformazione, qualche riflessione e musica. Oggi più riflessioni di controinformazione e la musica, ovviamente, per intervallare tra una lettura e l'altra di molte delle riflessioni che ci saranno oggi. Diciamo che la maggior parte saranno tutte riflessioni. Quando ci sono le riflessioni sappiamo che a qualcuno fa piacere sentirle, a qualcuno gli si può aprire un orizzonte, a qualcun altro si può chiudere, a qualcun altro si può stringere il buco del culo perché gli brucia. Quindi oggi leggeremo varie riflessioni dall'Italia, dalla Grecia, dall'Indonesia, dal Messico, insomma c'è un bel po' di cose di cui parlare oggi, e non solo le semplici, le solite sfide di arresti, perquisizioni, oppure purtroppo c'è qualcosa come azioni e ci hanno a che vedere specialmente con come abbiamo iniziato la diretta d'azione di oggi, in poche parole contro la Coppa del Mondo, contro i mondiali di calcio. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione@tc.org per chi vuole mandare qualsiasi tipo di scritto, poi io provvederò alla censura, ovviamente. Quindi chi non vuole che il suo testo o il suo scritto venga censurato, chi vuole evitare la censura, può fare anche a meno di spedirlo, oppure si fa una lettura del sito di radiazione, si vede bene o male gli argomenti di cui si tratta, e come vengono trattati, e allora decide: lo mando o non lo mando, lo mando o non lo mando, senza la margherita, al limite sfogliate qualche altra cosa. Allora, la mail l'abbiamo data, invece il sito è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete scaricare un bel po' di materiale tra CD, opuscoli, libri, manifesti e quant'altro. Nella pagina di download sul sito di radiazione vi ascoltare i podcast, se non tanto sentite la mancanza di questa voce di cazzo mia, potete andarvi anche a riascoltare i podcast delle vecchie dirette d'azione attraverso la categoria ascolta di dirette d'azione. Là ci troverete tutti i podcast da un anno e mezzo, quasi due anni a questa parte. Troverete anche quelli della lettura, perché il lunedì qui quando c'è Marcello facciamo la lettura su radiazione. Quindi ora in questo periodo, come ultimo libro dell'anno, stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey, quindi per chi è interessato, lunedì prossimo, solita ora, ore 17, diretta d'azione, che inizierà ovviamente prima con Nazero 13, il mio racconto, quello che va a puntate, quello che scrivo a puntate, quello che non riesco a scrivere tutta la settimana, tranne che il lunedì mattina alle 8, alle 9 mettendo la sveglia, e poi dopo ovviamente si intervallerà tra controinformazione e lettura di Sabotatori di Edward Abbey. La radio trasmette sul server anarchia.net. prima della diretta di oggi chi c'era, chi ha avuto la possibilità, abbiamo ascoltato le riflessioni fatte dalla compagna che portava il sito di radiazione in lingua croata, una diretta dello scorso anno, quando per l'appunto ci siamo conosciuti con la compagna, è venuta qua e abbiamo fatto questa diretta in cui lei ci ha aperto un po' il mondo su quello che per noi era ancora un po' oscuro, cioè quello della ex Jugoslavia, perché comunque a noi ci arrivano sempre notizie col cucchiaino, oppure arrivano notizie molto distorte attraverso giornali o altre ideologie politiche. Quindi da un punto di vista anarchico, nonostante altre compagne in Italia anarchiche croate l'ho conosciute, però lei ci ha fatto una sintesi, ci ha fatto un buon riassunto lo scorso anno e abbiamo deciso di proporlo oggi, e la salutiamo in attesa che inizi a fare la diretta d'azione in diretta dalla Croazia, così potremo imparare un corso aggiornato di croato e noi impareremo anche croato. Marcello ha detto che lo imparerà prima di me, io gli credo. E allora penso di aver detto tutte le cazzate possibili e immaginabili in questi nemmeno primi 5 minuti di trasmissione. Lo faccio per allungare il brodo, così finisce adesso la radio e io me ne esco da questa cameretta con tanto di aria viziata e un ventilatore puntato sulla testa che non farà sega nulla, cioè non mi sta dando alcun beneficio. Quindi ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Melt Banana, Schemes of the Tales, e poi dopo si torna qui e si inizia la diretta d'azione con la prima notizia di controinformazione del giorno. Iniziamo ovviamente con una bella notizia, una notizia d'azione. We'll be right back. E abbiamo iniziato molto soft, molto soft, molto dolce con Metà Banana. Ma continuiamo sulla linea soft, con la prima notizia di controinformazione della giornata. Una cosa dolce dolce, una cosa Argentina Uruguay, agitazioni e azioni contro i mondiali di calcio, una cosa molto soft. Allora, la prima arriva dall'Argentina, dove la notte tra il 29 e 30 maggio sono state fatte nel centro della città di Buenos Aires una serie di scritte sui muri contro i prossimi mondiali di calcio che si terranno in Brasile. Non ci sarà alcuna coppa, contro la miseria dei mondiali, fuoco ai mondiali, eccetera eccetera. E in solidarietà con la compagna Sol Vergara, arrestata in Cile e accusata di aver sparato ad una guardia bancaria. Dopo aver dipinto la facciata della AFA, Associación de Fútbol Argentino, i compagni sono stati fermati dalla Polizia Federale Metropolitana, portati alla commissaria tercera e dopo 14 ore di cella portati in tribunale, dove sono stati liberati dopo aver rifiutato anche di lasciare dichiarazioni, e attualmente sono processati sotto il reato di danni e in attesa di sviluppi giudiziari. Se si sceglie di condividere questo gesto in particolare e non gli altri, non è per chiedere solidarietà o l'approvazione di nessuno, ma solo per comunicare con i compagni che si attivano con vari mezzi qui o in qualsiasi regione che ci sono compagni che sono in agitazione e propagandano contro questo torneo disgustoso, e li invitiamo ad unirsi alla lotta contro di esso. È chiaro, con l'intenzione di mandare la nostra forza a quelli che restano nelle strade del Brasile e si organizzano contro l'assalto statale che, pur di organizzare questo evento milionario, espelle, umilia, imprigiona, tortura e uccide la gente delle favelas. La nostra forza è sempre con i compagni imprigionati che non si pentono. Non ci sarà alcuna coppa. Invece l'altra azione arriva da Montevideo, Uruguay. Giugno 2014, la mattina del lunedì 9 giugno, abbiamo attaccato con tre molotov il quartiere generale del AUF, Associación Uruguaya de Fútbol, in via Guayabo y Vázquez, distruggendo e bruciando parte dell'edificio. Questa azione è in risposta a tutta la merda che è coinvolta nella celebrazione dei mondiali di calcio. Mandiamo un abbraccio e forza ai compagni che lottano in tutto il mondo e un grande abbraccio ai compagni processati a Buenos Aires, Argentina. Non ci sarà alcuna coppa. Questo, anche questo comunicato, questo più altro testo di rivendicazione, finisce con lo stesso slogan: non ci sarà alcuna coppa, intanto ieri è iniziata. Facciamo finta che non sia accaduto nulla, è iniziato, però speriamo che nell'evolversi della manifestazione si evolverà anche la contestazione. Allora, questa era per iniziare benino bene la giornata, sotto il sole afoso, il caldo asfissiante, l'aria viziata della cameretta. Ora ci ascoltiamo un altro brano leggerino, Neurotech con il brano The Sky Is Always Open. Nel senso, cioè, non c'è bisogno nemmeno, cioè, il brano dice il cielo è sempre aperto. Io ho trovato una somiglianza con una cosa che dico io normalmente. Non c'è bisogno delle manifestazioni ogni volta che c'è un qualcosa, gli obiettivi stanno sempre là, quindi il cielo è sempre aperto, e forse negli altri giorni è anche meno controllato. Fate voi. Still one. questi è unico New Research con il brano The Sky Is Always Open. Allora, io mi sono dimenticato di dire una cosa in apertura, dovrò prendere il vizio, ora me lo metterò una nota qui sul tavolo, sulla scrivania. E tra gli indirizzi utili, quando si danno gli indirizzi utili, si deve dare anche la sconnessione utile, nel senso che ogni diretta, oramai ci siamo abituati, cade la connessione, quindi dobbiamo ricordare sempre, attenzione, che ora hanno cambiato l'orario, quindi si va dalle 18.10, tra le 18.10 e 18.25, fino a qualche tempo, fino a un paio di settimane fa era tra le 17.10 e 17.25, evidentemente ora fa un pochino più caldo, le sinapsi si riscaldano molto di più a quell'orario, quindi hanno deciso di permettere un'ora solare per quanto riguarda la disconnessione di radiazione. Quindi vi avviso in anticipo che a breve sono le 17.27, a meno che ora non se la prendono come questione di principio e fanno cadere ora la connessione, ma non ci penso, non credo. Tra quell'orario 18.10 e 18.25 molto probabilmente la connessione andrà giù. Chi ascolta radiazione sa come fare, basta riaggiornare la pagina col lettore fino a quando non sentite di nuovo questa voce di cazzo qui in diretta. Allora, abbiamo detto che oggi è giornata di riflessioni, riflessioni che arrivano un po' da tutto il mondo, dalla Grecia, dal Messico, dall'Italia, dall'Indonesia, insomma, abbiamo un bel po' di riflessione, la maggior parte di compagni, tranne quella in Italia, però tipo quella del Messico che ora andremo a leggere, per esempio, sono delle riflessioni del compagno Mario Gonzalez, che è in carcere dal 2 ottobre del 2013. Allora, sto morendo da caldo, mi manca un cicchetto, cioè non è mi manca un cicchetto, mi manca un bicchierone di vodka fredda, una bella vodka lemon, così ora qualcuno si divertirà pure a dire guarda quello, il prima roba è cazzo, poi beve, si ubriaca, poi dice le cazzate, io le cazzate le dico comunque, anche quando sono lucido, quindi un bel bicchiere di vodka bella fredda, ghiacciata, ora ci vorrebbe. Allora, Messico, passiamo alle cose più serie. Messico, ho detto, c'è uno scritto del compagno Mario Gonzalez che andiamo a leggere. La guerra ignorante degli invincibili e degli ingovernabili non smette di essere presente nella storia dell'umanità contro la capacità di accumulazione distruttiva scatenata da un meccanismo economico-finanziario che nessuna istanza internazionale si trova nella posizione di regolarla, la globalizzazione. Mentre i metodi repressivi del potere contro la dissidenza sono sempre più sofisticati, mantenersi solo sulla difensiva non è la nostra unica opzione. Passare all'offensiva è necessario, come dice Bonanno, e con creatività se non vogliamo essere scavalcati dal nemico capitale. Davanti ai danni di questa guerra si creano forme di solidarietà con i caduti, i feriti o detenuti che lottano per l'emancipazione dell'umanità, e l'anticarcerario in generale è vitale in questa lotta. La CNA, la Croce Nera Anarchica, è un'importante e preziosa dimostrazione di tutto questo. Nel suo 10° anniversario voglio ringraziarli per la solidarietà che hanno mostrato a me e molti compagni detenuti anarchici e non anarchici dal 2004. Trovare persone che non ti mettono da parte per essere anarchico nel momento del dare appoggio e solidarietà ci dimostra che non siamo soli e ci aiuta a non soffrire la detenzione in solitudine come deplorevolmente accade ad altri detenuti, a molti altri detenuti. Oggi nelle prigioni viviamo la crescente sovrappopolazione e disperazione per la punizione che riceviamo noi poveri, dissidenti ed esclusi che rompiamo questi posti, che riempiamo questi posti, dove ci condannano ad essere prodotti che generano guadagni per il capitale e ci turbano con la tortura della reclusione. È per tutto questo che le prigioni sono una bomba ad orologeria. si avvicina uno sciopero selvaggio che le distruggerà e ci sarà pertanto una fuga massiccia. Non credete che questo sia possibile con la forza di 12.000 detenuti in ogni prigione? Vivendo sulla propria carne l'esperienza di stare dentro questo apparato di morte, marcio alla radice, uno ha una dimensione reale di quello che è la prigione. È facile dire che il reinserimento sociale è un'assurda farsa e è solo un mercato di punizione che ci consuma a poco. Davanti a questo, la forza umana normalmente dimostra la sua impressionante e infrangibile forza che lo Stato cerca di distruggere affinando i suoi metodi di repressione, ma non credo che possano riuscirci. Tutti i detenuti cerchiamo la nostra libertà, raggiungiamola. Non lasciamo che la morte ci spaventi più che l'assenza della vita, della vera vita. Anarchia, salute e rivoluzione sociale, Mario. E questo era lo scritto, le riflessioni del compagno Mario Gonzalez da un carcere, a uno dei carceri messicani. Poi sotto l'articolo che trovate su Radiazione, l'articolo che l'ho scritto appena letto, ci sono delle note che ora andarvi a specificare è un casino, perché dovrei rileggervi la parte che abbiamo letto nello scritto di Mario e darvela a ricollegare con le note, quindi è molto più facile che voi ve lo rileggiate, visto che sicuramente non ci avete capito un cazzo di quello che ho detto io e letto io, ve lo rileggiate e vi rileggete anche le note a cui fa riferimento il compagno. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono on download, Sien Influence, e poi dopo si ritorna qui e si passa ancora ad un'altra riflessione da un'altra parte del mondo. Però this is the time we make noises, playing the game of mixing, and we are contrived to play this. It is a painful thing to be alone, but more painful still still to have to be so, so polite. Is pain so bad when one believes in nothing? Thank you. questi erano Download con il brano Sin Influence. Ho detto prima di mandare il brano che da ora inizieremo a leggere tutta una serie di riflessioni, tutta una serie, ne abbiamo già letta una, ce ne sono tante per oggi, alcune le spezzetteremo come la prossima e anche quella dopo, perché sono un po' lunghe. La prossima è praticamente arrivata 10 minuti prima, un quarto d'ora prima che iniziassimo la diretta, un quarto d'ora, 20 minuti, tanto era super giù. Ed è una, sono delle riflessioni fatte, c'è una M puntata, quindi da uno dei compagni che cura anche il sito Anarchici Pistoiesi, che potete trovare il link su Radiazione. Una riflessione un po' generale che però parte da una data, da parte da un evento che si terrà a Torino prossimamente. Il testo si chiama Cattedrali nel deserto, riflessioni intorno all'11 luglio. Il brano, il testo inizia con una citazione di Bruno Filippi che dice: ribelle perché oggi la società m'opprime e vuole impedire la liberazione, la libera espansione del mio essere. Io adopero tutte le armi per combattere. Ribelle contro la massa, che anch'essa mi è nemica per le superstizioni, morale, degradazione, eccetera. Pure contro la massa combatto. Solo in lotta per la mia redenzione, per la mia libertà, per il mio presente. Di tutto il resto me ne infischio. Bruno Filippi. Ho fatto un sorso d'acqua, stavo morendo. Allora, poi inizia il testo, iniziano le riflessioni di questo compagno o questa compagna. Allora, l'11 luglio si terrà a Torino il G7 e immancabilmente la città sarà teatro, mai termine calzò più a pennello, di una mobilitazione organizzata da varie realtà nazionali. Anche alcuni anarchici e anarchiche hanno deciso di rilanciare la giornata e questo mi lascia decisamente perplesso. L'11 luglio sarà l'ennesima messa in scena della rabbia sociale che si inserisce in un contesto quotidiano di controllo quasi assente, di conflitto quasi assente, tranne alcune realtà, che spesso si muove su basi rivendicative o a bassissima intensità. L'11 luglio sarà l'ennesima giornata che servirà politicamente ad alcuni per guadagnare spazio sui media di regime. Meglio se ci sarà qualche scontro o qualche arresto, poi, passata l'onda dell'indignazione, la sostanziale pace sociale tornerà a regnare nel bel paese, fino almeno alla prossima messa di piazza. Queste sceneggiate autonomo disobbedienti non dovrebbero essere pane per i denti dei rivoltosi rivoluzionari. Come tacere poi le parole d'ordine piccolo borghese sulle quali è lanciata la mobilitazione e che sono del tutto indicevibili? Le partite IVA, i precari sono sfruttati, ma noi che siamo per la distruzione del lavoro, per l'abolizione del salario, cosa abbiamo a che spartire con questi temi se non la critica a chi invece di lottare dentro la distruzione del sistema vigente di sfruttamento a lui si rivolge chiedendo sostanzialmente una sorta di riforma di se stesso? Ovviamente che chi ha come prospettiva la presa del potere e non la sua distruzione non possa che denunciare la mala gestione dell'istituzione politica, lasciandola intatti senso e struttura, senza mettere realmente in conto una sua dissoluzione. Ma gli anarchici cosa hanno da chiedere a Stato ed istituzioni? O qualcuno si è piegato alla logica pericolosissima delle lotte intermedie? Siamo dunque diventati sindacalisti della rivolta? Cosa abbiamo noi a che spartire con la lamentazio del taglio dei servizi, visto che questi ultimi sono elargiti dallo Stato? Siamo dunque arrivati alla logica dell'elemosina OPS del welfare anche in ambito anarchico? Non credo. Qualcuno obietterà che sarà necessario partecipare per non lasciare campo libero a quelli, tra virgolette, ma non ci accorgiamo di giocare la partita con delle carte truccate. La giornata viene preparata da mesi dalla galassia dell'autonomia, che con i suoi slogans, il fastidiosissimo ci vediamo l'11 attaccato a qualsiasi cosa, sta creando un immaginario da lotta sindacale a tutto campo, quindi non mettendo realmente in discussione il corpus dei simboli che va sotto il nome di Stato, autorità eccetera, ma sostanzialmente rivendicandone una sua riforma in senso popolare, senza toccarne le strutture base. Non mi sembra che ci sia stato da parte degli anarchici o delle anarchiche il tentativo di rilanciare contenutisticamente quella giornata, quindi si tratterebbe di partecipare turandosi il naso, forse solo per il timore di venire tagliati fuori dalle lotte sociali, come se la folla istupidita e reazionaria non aspettasse altro che le parole liberatrici del senza bandiera. Ancora, la manifestazione dell'11 si rivolge a chi accetta di buon grado le proprie catene, che le difende, il lavoro è un diritto, e che chiede una a mezza voce solo che vengano allentate un minimo, magari verniciate di rosso. Si rivolge a quella società civile che plaude l'operato dei giudici buoni e si indigna per le nefandezze di quelli cattivi, che dice se ne vadano tutti, slogan che a ben vedere reazionario, che non critica la struttura ma chi la gestisce, rivendicando funzionari onesti, che vuole riformare le carceri e non distruggerle, che ripudia la violenza ma è disposta a subirla. Cosa abbiamo noi a che spartire con il gregge stupido? Abbiamo forse velleità religiose di redenzione delle messe attraverso il verbo? E se sì, non sarebbe preferibile per voi organizzare una messa sotto il simbolo della A cerchiata? Speriamo decisamente di no, piuttosto che partecipare alle liturgie in bandiera rossa sperando di ritagliarsi il proprio spazietto. Certe volte mi sembra che da parte di chi predica un anarchismo sociale inserito nelle lotte quotidiane delle masse ci sia un comportamento da sindacalista che spinge delle lotte intermedie non come una strategia di medio termine, che comunque non condividerei, ma come se avesse paura che l'interlocutore non potesse capire ciò di cui gli stanno parlando. E su questo siamo d'accordo, non possono capire il senso di una liberazione totale, e questo perché ne hanno una gran paura, forse non la vogliono o non saranno certo mille parole o mille cortei a fargli cambiare idea. Chi non si libera da sé non potrà essere liberato da nessun altro e rompere le catene che lo costringono o la costringono dall'interno è processo puramente individuale che passa attraverso vie oscure, come pensare di interpretarle? Ripeto, le grandi liturgie di piazza come questa non ci dovrebbero riguardare. Nemmeno come partecipazione critica, perché l'ennesima volta ci ritroveremo a fare le comparse nel gioco dei vari autoritari. E questa era la prima parte dello scritto, io sono ancora secchissimo, mi sto ammazzando. Ora ci ascoltiamo un brano che è giusto per intervallare e per spezzettare lo scritto, che fino ad ora non fa una piega, e comunque riprende anche alcune cose che periodicamente il sottoscritto scrive attraverso le proprie riflessioni e pubblica su Radiazione. Il prossimo brano sono The Cigarettes e poi dopo si ritorna qui con il continuo dello scritto del compagno da Pistoia. Bye. questi erano The Cigarettes. Io non ci ho avuto il tempo di accendermene una, anche perché c'aveva la secca, quindi giusto per intervallare, per spezzettare lo scritto che ci arriva da Pistoia, che ora andremo a continuare. Gli altri sono veramente orribili, l'unica società possibile è in noi stessi. Oscar Wilde. Rivedete veramente che le più o meno grandi mobilitazioni di piazza abbiano un senso? Organizzatele. Di par mio, penso che l'attacco diretto e non mediato all'autorità in tutte le sue forme sia la strada che mi allinea, m'allinea maggiormente. L'utilità, la volontà dell'azione, che è l'urlo fragoroso contro la tempesta della reazione, ritto a prua non mi piego, ma contrattacco. L'utilità. Ma siete poi ben certi che la piazza sia utile, che serva a qualcuno per aprire gli occhi, o le dinamiche che portano dal passaggio dal lamento alla rabbia ci sono sconosciute come a tutti del resto? Se quest'ultima affermazione è vera, non è più saggio agire come si ritiene più affine alle proprie sensibilità e non più utile alla bugia della pedagogia sociale? E poi, non sono anche le piazze prettamente autoreferenziali a pro di un'individualità collettiva che oltretutto ossimoro visibile? Se tutto ciò non bastasse, trovo anche fastidioso che ci si debba muovere su scadenze dettate dal nemico. In una logica resistenziale interiorizzata che però dovrebbe lasciare spazio a quella dell'attacco costante allo sfruttamento e all'autorità. Muoversi in risposta a, soprattutto con certe premesse, significa in una certa misura legittimare e riconoscere l'autorità dell'avversario. Però gli avversari sono tali in una partita della quale si condividono le regole, ad esempio nella cosiddetta dialettica democratica, ma noi rivoltosi rivoluzionari che delle loro norme, della loro democrazia siamo oppositori e perciò attaccati, che ce ne facciamo di avversari? Noi abbiamo nemici con i quali non si tratta. Non sono pregiudizialmente contro le mobilitazioni, ma questo si dovrebbe inserire in un contesto di attacco reale e quotidiano all'autorità, che ad oggi è decisamente limitato, e questo attacco dovrebbe essere avere basi realmente rivoluzionari in senso anarchico. Ora e subito, perché qui ed ora viviamo. Non mi sto quindi condannando all'inazione, solo vedo la lotta da una prospettiva diversa. Non si tratta di stare fermi, si tratta di colpire sistematicamente con azioni di ogni tenore e dimensione l'autorità seguendo la logica dei piccoli gruppi o delle affinità. L'11 luglio sarà la rappresentazione di un dissenso riformatore, borghese e conservatore. Ognuno si comporti verso quella giornata come meglio crede, ma dopo per favore non cominciamo con le solite lamentele di chi ci è cascato. Al di là delle conclusioni politiche che ognuno può avere, l'unica certezza è che quei compagni che desiderano partecipare attivamente alla lotta anarchica dovrebbero studiare gli errori ed essere un passo avanti del nemico, studiando le proprie mosse con molta attenzione e pazienza, per evitare mosse avventate senza che questo porti all'inattività. Nikos Romanos, questo è estratto dalle riflessioni che dopo andiamo a leggere del compagno Nikos Romanos detenuto in Grecia. Poi un'altra citazione che nemmeno fa la posta, l'altra fa parte delle altre dichiarazioni, ed è la citazione di It, il compagno indonesiano: la stupidità del movimento quando considera l'urgenza dell'attacco è che la prigionia sarà sempre la conseguenza logica per chi ha il desiderio di distruggere il sistema. Lo Stato e il capitalismo hanno grandi armi o grandi soldati antisommossa, ma se si compara come un migliaio di persone che protestano per chiedere stipendi più alti, non è pericoloso per il potere rispetto a quelle individualità che bruciano solamente alcune delle loro proprietà, dichiarando che non saranno più sottomesse, e mostrano al potere che non rispondiamo più al suo solito linguaggio di controllo. E questa era la lunga dichiarazione di riflessione di questo compagno, questa compagna. Io ancora non ho capito che ha mandato questo testo prima della diretta attraverso la mail di Anarchici Pistoiesi, quindi compagni pistoiesi, che tra l'altro hanno anche un sito, un blog, per chi vuole andarlo a controllare. Guardate nei link, trovate Anarchici Pistoiesi, ci cliccate, è inutile dirvi come si fa ad aprire una pagina. Stiamo imparando tutti insieme, appassionatamente. All'inizio nemmeno io sapevo cazzo come fare, nemmeno come accedere ad internet. Ora mi trovo a fare coglione il microfono a trovarmi in una cameretta con l'aria viziata due volte a settimana solo per fare radio, e tutto il resto per fare controinformazione. Allora, a parte queste cazzate, giusto ogni tanto così per spezzettare anche il momento. Allora, queste erano le dichiarazioni di questo compagno, questa compagna, che ci arrivano da Pistoia. Ora mandiamo un brano lunghettino, quindi chi si vuole fumare una sigaretta, chi si vuole andare a prendere un caffè, chi vuole uscire a fare la spesa, può farlo. E Craft con il brano Fuck the Fakes, poi dopo si torna qui con altre riflessioni, e qui suderò, infatti vado a prendere l'asciugamano. E allora, questi erano gli Kraft con il brano Kid Fix, no, Fuck Fix, come avevo detto, Kid Fix. Ora, siccome ho detto volevo sarebbero state altre riflessioni, volevo giocarmela, volevo, porca puttana maledetta, me la volevo giocare così. Sto parlando, sto scimmiottando un personaggio poco gradevole, no, fa ridere. Dicevo, allora, siccome ci avviciniamo all'orario di caduta della connessione, mi volevo giocare queste riflessioni, perché è brutto che poi si cade e si lascia ad un certo punto, specialmente per chi non ha tempo di leggere, chi non sa leggere come me, chi non vuole leggere come me e che preferisce sentirsele leggere da qualcun altro certe riflessioni, anche perché sto parlando delle riflessioni del compagno Nikos Romanos, su circa 4-5 pagine, quindi siccome sono le 18.03 ora, 18.04 ora, tra 10-15 minuti ci sarà la disconnessione, la magica disconnessione, quindi io passerei prima ad un'altra notizia, sperando che la connessione caschi nel momento in cui c'è la musica e non mentre sto leggendo. Speriamo, incrociamo le dita e aspettiamo che lo schermo si tranquillizzi, sta andando su e giù di continuo. Allora andiamo in Cile per l'esito del processo dei tre compagni accusati per Casa Security. L'avevo detto la settimana scorsa che aspettavamo l'esito di questo processo, che c'è stato il 6 giugno, purtroppo quasi non si scrivono prima i testi chilometrici, la notizia non arriva. Allora, internet è veloce quando cazzo vuole lui, però poi quando c'è una cosa del genere, no, allora devo essere il primo, devo fare lo scritto per primo, e quindi uno deve aspettare i comodi di cazzo di chi deve fare lo scritto, perché poi non lo sai, perché stai a 10.000 km prima di avere una notizia, dopo che sono stati aperti i siti, c'è stata abbondantemente propagandata, cioè informata e tenuta aggiornata sulle udienze del caso Security, e quindi abbiamo dovuto aspettare che arrivasse uno scritto per sapere che i compagni sono stati condannati. E ancora non si sa quale pena, perché forse la funziona diversamente. Sì, è una critica a chi doveva farci avere la notizia della sentenza, non subito, no, 2 minuti dopo, un giorno dopo, 2 giorni dopo, ma no, 4-5. Allora, l'unica cosa che non indovino è un terno all'otto, poi ci azzecco subito, caduta la connessione, 18.08, 2 minuti in anticipo, però siamo riusciti a far cadere la connessione, quindi purtroppo in questa giornata in cui dovrò leggere chilometri di pagine mi tocca ricominciare da capo. Allora, stavamo leggendo l'articolo sui compagni del Cile per il caso Security, l'esito della sentenza. Rileggiamo l'articolo. Io lo so, lo fanno per farmi perdere la voce. Vogliono che io perda la voce. Lo so. Scherziamo, scherziamo, perché noi non ce la prendiamo per una caduta di connessione, noi facciamo solo cadute di classe su radiazione, non di connessione, quindi allora quest'ultima settimana di processo ai nostri compagni è stata contrassegnata dalla campagna mediatico poliziesca contro Juan e la sua famiglia in merito alla presunta scoperta di un piano di fuga allargato poi a Freddy, Marcello e i loro solidali, cosa che ha comportato continue perquisizioni della cella di Juan, distruggendo non solo i suoi oggetti personali ma anche l'assurda distruzione del pavimento e delle pareti. Inoltre la polizia ha perquisito le abitazioni dei solidali. Tutto ciò non è stato altro che il preludio all'ultimo atto dell'inquisizione democratica. Il processo ai nostri compagni è durato 11 settimane e 6 giugno tra le tre signore che si prendono l'autorità di decidere il destino delle persone hanno letto il verdetto per Juan, Freddy e Marcelo. Questo rituale di sacrificio umano è andato in scena con una scenografia dantesca di sicurezza che contemplava il contingente completo delle forze speciali all'uscita del centro di giustizia, controllo dei documenti, personale del GOME in cerca di esplosivi, ingressi strettamente controllati, agenti con scudi e caschi in ogni torre del posto e cornuti che ci fanno cadere la connessione. Questi non c'erano in Cile, però stanno qua in Italia. La disposizione del tribunale ha contemplato una nuova e infame trappola per isolare i compagni dei loro cari e solidali e provare nuovi metodi repressivi. Così in aula c'erano solo i tre giudici, gli agenti della gendarmeria, i procuratori, le parti offese, gli avvocati, i nostri compagni, una situazione riservata alle carogne dei giornali, alle carogne che ci fanno cadere la condizione, nemmeno questi. C'erano in un'altra sala la vedova, la figlia di Noiano e i colleghi. I familiari sono stati costretti a stare in una torre completamente isolata e fortemente controllati dagli agenti, in una piccola sala con televisione custodita dai carcerieri che trasmetteva in videoconferenza l'andamento dell'udienza, quindi l'Italia fa scuola. Misure come queste sono già state applicate per l'assoluzione dei carcerieri responsabili del massacro durante l'incendio nel carcere di San Miguel. Questo fatto non è isolato, nel centro di sterminio di Guantanamo i prigionieri vengono processati allo stesso modo. In Italia, in effetti, la repressione ha fatto passi in avanti in vista del processo ai prigionieri anarchici Gianluca e Adriano. Queste misure di tecnocontrollo arrivano fino alle celle dei compagni e non permettono l'uscita dal carcere. Così i giudici non devono avere faccia a faccia chi stanno condannando e questo impedisce il contatto fisico tra prigionieri e solidali. In questo modo il processo, oltre ad essere un linciaggio mediatico, si trasforma in un set televisivo dove i giudici diventano registi che possono disporre, accendere e gestire le telecamere, i piani, le inquadrature e i microfoni per perpetuare l'ordine che li favorisce. Quanto accaduto nel verdetto del caso Security è un esempio di come la repressione invita e apprende da altri territori con stati di polizia più estesi. Da una prospettiva insorta, l'internazionalismo comprende guardare alla repressione in altri territori, conoscendone l'agire e la resistenza che i compagni o le compagne sono capaci di generare. Stiamo attenti alle mosse della repressione. Intendendo che il modo di pronunciare un verdetto può essere un primo passo di una serie di misure che cercano di isolare i compagni, i prigionieri, processati ed estendere il controllo e il dominio della società carceraria. Da parte loro, dopo di più di due mesi alla fine le tre miserabili giudici, hanno deciso della vita di esseri umani come un mero tramite amministrativo regalano a destra e a manca anni di condanna ai nostri compagni. Anche se le aspettative dell'accusa non si sono avverate in pieno, il verdetto è sufficiente per condannare a vari anni di carcere i compagni. Allora, nel caso 1, rapina con intimidazione a Banco Santander ad Agustinas, dove è stato assolto Juan. La rapina con intimidazione a Banco Santander a Valparaíso sono stati condannati Juan, Marcello e assolto Freddy. Per la rapina con intimidazione al carcere a Banco Security ad Agustinas sono stati condannati Juan, Freddy e Marcelo. Omicidio di Moiano e tentato omicidio di Abarca, condannato Juan in qualità di autore e Freddy come partecipante. Quindi già questo, facendo un attimo lo stacco del testo che stiamo leggendo, già fa capire, cioè Juan condannato quasi in tutti i casi, Juan come autore dell'assassinio di Moiano e del tentato omicidio di Abarca, che sarebbe l'altro sbirro che si trovava a passare di là e voleva aiutare i suoi colleghi ed è rimasto ferito anche lui. Già da questo si può capire che bene o male la sentenza era già stata preparata, già orchestrata, perché nemmeno a farla apposta. Abbiamo letto l'altra volta, abbiamo letto all'inizio del testo qui, che proprio nei riguardi di Juan c'era una particolare attenzione da parte della gendarmeria, da parte degli sbirri, che hanno fatto di tutto. Una settimana fa, 10 giorni fa, trovandosi questa scusa di questa chiave infilata nel sacchetto della colazione che la mamma di Juan stava portando in tribunale per il figlio, le perquisizioni, la distruzione totale della cella dove stava Juan. Questo fa capire che comunque non si doveva aspettare al 6 per avere la sentenza, ma la sentenza la stavano già mettendo in opera nel carcere a Santiago del Cile. Quindi vabbè, questo era un piccolo mio spacco, anche ricordando gli episodi vecchi. Dopo la lettura del verdetto sono state chiamate a deporre la vedova e la figlia di Moyano in un misero show che cercava solo di favorire l'atmosfera televisiva e giustificare la condanna. La lettura è andata avanti trattando le attenuanti o aggravanti per considerare il numero di anni che il potere giudiziario vomiterà sui nostri compagni. Vale la pena considerare che Juan verrà considerato recidivo a causa dei precedenti a suo carico in merito alla morte di un agente durante gli scontri degli anni 90. Freddy è l'unico incensurato, ma la procura ha presentato un certificato penale dove, a sorpresa, Freddy risulta condannato dalla giustizia militare nel dicembre 2009 per il suo ruolo nell'omicidio di Moyano. Una sentenza fittizia e inesistente di un processo mai fatto, ma che senza dubbio è la miglior prova che i compagni erano stati condannati anche prima del processo, dell'inizio del processo. Alla fine è stata riconosciuta la condanna irreprensibile di Freddy e la procura ha concluso sollecitando un totale di 108 anni di carcere per i tre compagni. Finita la lettura, familiari e solidali hanno iniziato a lanciare volantini e a srotolare striscioni all'interno del tribunale. L'asfissiante controllo degli agenti non ha impedito che l'agitazione si propagasse. Ci sono stati piccoli scontri con i carcerieri disposti in vari punti dell'edificio. Colpi e insulti agli agenti hanno causato il rapido arrivo di un enorme contingente di antisommossa che ha subito occupato il settore. L'assurdo dispiegamento ha incluso agenti con idranti in vista del fuoco sulle uniformi, come anche ridicoli lacrimogeni e riconosciuto arsenale di proiettili di vernice e gomma. Dopo questo sono stati chiusi gli ingressi al tribunale e l'insieme degli agenti è rimasto chiuso all'interno per diverse ore. La solidarietà rivoluzionaria non si ferma alla fine di questo circo teatro. Juan, Freddy, Marcello e Carlos hanno affrontato a loro tempo le minacce di morte a loro carico, la clandestinità, il carcere argentino e brutale isolamento in Cile, affrontando ora il linciaggio giudiziario. Loro hanno rifiutato gli accordi, disprezzando il rifiuto di una vita che hanno scelto e distruggendo i ponti col mondo e la cultura del potere. Compagni che hanno disprezzato il dominio, le sue forme, i meccanismi, lontani dalle troppe infamità fatte da alcuni, sono compagni che disprezzano ogni quota di potere o l'amministrazione di questa società di morte, e così hanno fatto durante la loro continua offensiva. Non saranno le prigioni della democrazia, i decenni di condanna o le tonnellate di cemento con cui pretendono di seppellire i compagni, che non si fermano un secondo o retrocedono un millimetro nel proseguimento della guerra sociale, perché la prosecuzione della lotta contro il potere è un'attività reale e concreta, perché nulla finisce, assolutamente nulla è finito, tutto continua. Disprezzo per i giudici, i procuratori, i carcerieri e la carogna giornalista. Amore in rivolta per Juan, Freddy e Marcelo. Solidarietà insorta con i compagni del caso Security. E questo era per quanto riguarda l'esito del processo per i tre compagni accusati nel caso Security. ricordo che Casa Security prende nome dall'ultima rapina in cui sono accusati tre compagni, in cui c'è stato questo scontro a fuoco dove è rimasto stecchito il capo dei Carabinieri Moiano, è ferito anche un altro pezzo di merda che era soccorso in suo aiuto, il capo a barca. Allora, questa era per quanto riguarda, invece volevo dire, riallacciandomi a prima, non lo so se era già caduta la connessione quando stavo introducendo il testo che ho appena letto. Allora, praticamente normalmente alcuni accusano, altri criticano. Chi accusa lo fa in vesti di magistrato, anche se sotto, invece della legge uguale per tutti, dietro c'è un bel drappo nero con tanto di accerchiata. Non cambia un cazzo, chi giudica, giudica, o anarchici o giudici sono uguali. Poi c'è chi critica, è un'altra cosa, chi critica e lo fa con delle motivazioni è un altro paio di maniche. Ma molto spesso chi accusa la controinformazione via web, si accusa di una velocità, di della lettura veloce. Anche chi critica dice queste cose, però poi le motiva in altri termini e non come chi ci accusa. Della lettura veloce, sto sfogliare di queste pagine veloci, di una cosa che non resta, che non viene discussa, di cui poi non si parla, che uno la legge e poi dopo due secondi se ne è dimenticato. Allora, questa è la risposta a chi dice che la controinformazione è veloce su internet. I compagni sono stati sentenziati il 6 giugno, la notizia è uscita solo qualche giorno fa. I compagni di Croce Nera Anarchica fortunatamente l'hanno trovato e si sono presi la briga di tradurlo, e io l'ho pubblicato su Radiazione. Quindi non è vero che questa controinformazione sia così tanto veloce su internet. E dicevo, cioè uno non pretende che oggi c'è processo, oggi c'è la sentenza e tra 5 minuti mi devi mettere l'articolo. Non siamo dei giornalisti, non siamo a questi livelli, però almeno il giorno dopo ho pure la sera a dire sono stati accusati per questo, poi daremo aggiornamenti. Però nel frattempo facci sapere che i compagni sono stati condannati per questo e quest'altro. Poi le riflessioni, gli aggiornamenti ce li puoi far sapere pure un'altra volta. Però siccome qua ci si è trovati a tradurre veramente chilometri di pagine e di righe per aggiornare sul caso Security, ci sarebbe aspettato anche che prima di partorire un testo così, che non fa una piega, che è bella, condivisibile, se non era condivisibile nemmeno lo pubblicavo, mettevo solo l'esito del processo. Però non si deve aspettare che viene l'illuminazione per scrivere un testo per sapere che dei compagni sono stati accusati. Questa era la critica, questo è il mio modo di vedere. Poi ognuno alle sue, speriamo che ad ognuno il suo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Icebreaker con il brano Ferrox, e poi dopo si torna qui e si leggerà ancora controinformazione. dass ich sag, du hast recht. Du sagst, dir geht's prächtig, das heißt, dir geht's schlecht. Ich bin unersättlich, krieg niemals genug. Was kann deine Wunden? Allora era un Noise Breaker con il brano Frucht, un mix di Breakout. Allora ora tocca sia Mari. Ora il prossimo testo lo andremo a spezzettare a più di una volta perché è bello lungo. Si tratta del testo e della rivendicazione del compagno greco Nikos Romanos, uno dei quattro compagni arrestati lo scorso anno per la doppia rapina a Vento e Cozzani. Allora, leggiamoci il testo senza fare introduzioni perché già ce n'è e ce n'è pure tanto. Il testo si chiama La bellicosità della dignità. Inizia con una citazione di Tasos Livaditis che dice: e un giorno ti dirò quando ti ho amato, ma dovrai incontrarmi di persona. Come un boia ho innaffiato le rose della compassione mentre dormivano. Io, un uomo malato di convinzione, un genio della sofferenza, colpito alla testa per un periodo più bello, e forse le nostre lacrime vanno oltre i nostri sogni. Al calar della notte ho dovuto riconquistare la mia innocenza perché le stelle arrivassero in tempo. E siamo soli di uscire il presente con la paura o i rimorsi, ma ancora di più con i sogni. Tasos Livaditis. E questo che segue è il testo del compagno Nikos Romanos. Lo scopo di questo testo è quello di costruire ponti di comunicazione con tutti i compagni che mantengono vivo l'impegno per la distruzione, per dare vita ai miei pensieri e riflessioni che attraverso queste frasi viaggiano e si incontrano con quanti credono, come credo io, che solo attraverso una lotta costante possiamo riappropriarci delle nostre vite, alle nostre condizioni. Una lotta costante che si manifesta in mille modi diversi, che si indirizzano tutti ad un obiettivo. Con grida di rabbia e scontri durante le manifestazioni, con la matita e la carta su cui registrare i pensieri pericolosi, con colloqui e confronti con cui si costruiscono le relazioni durature tra compagni, con le armi, le bombe e le fiamme che sono rappresaglia contro un mondo intero che vorrebbe gettarci nel vuoto. Un viaggio disperato verso la libertà, accompagnato dall'ostinazione e dalla follia di tutti coloro che hanno deciso di arrischiarsi e camminare contro i pronostici, lottando contro il proprio destino. In questo viaggio l'individualità è il nucleo attorno al quale si costruisce la lotta liberatrice. L'individualità, essendo il fondamento spirituale su cui si stanno rendendo collettivi gli spiriti sovversivi, deve respingere la logica di autorità e lasciarsi condurre dalla tempesta dei grandi cambiamenti interni che si manifestano evolvendosi in pratica. Sapendo che siamo contaminati dalle scorie di un mondo malato, i conflitti interni in cui entriamo durante il movimento frenetico della nostra vita sono le nostre battaglie contro l'alienazione quotidiana in cui ci troviamo vivendo negli ambienti ostili. L'avversione alle convinzioni che siamo costretti ad accettare per sopravvivere, il pensare ai vicoli ciechi in agguato lì, la guerra contro la paura, la dura supposizione che la gente in lotta, dopo tutto, non è così pura come si vorrebbe presentare. No, mi veniva in mente certa gente. Perché gli anarchici non sono soldati che si sacrificano per un obiettivo, né custodi di una presunta verità soggettiva ma imposta come oggettiva. Lungi da me tutto questo marketing rivoluzionario e il profilo del più duro, del più cattivo, di chi è più rivoluzionario. Alcuni commenti sulle nuove accuse. Qualche tempo fa ho ricevuto un mandato di comparizione davanti agli inquisitori Moccas e Nicolopoulos per rispondere alle accuse su di un nuovo caso, tutto ciò che sulla base dei risultati delle perquisizioni delle case effettuate dalla polizia dopo il nostro arresto. Questo caso ha a che fare con la nostra partecipazione in attacchi incendiari e rapine in banche, basandosi sia su prove di DNA apparentemente identificato che su supposti riconoscimenti da parte di dipendenti della banca. Nel mio caso non mi è stata addebitata nessuna delle rapine in banca, ma solo attacchi incendiari realizzati dalla FAI, fuochi all'orizzonte, FAI, brigata fuoco alle carceri, ombre in fiamma e minoranza combattiva. Allo stesso tempo, per una mia impronta digitale trovata su di una bottiglia di birra trovata nella casa di Alandri, dove si stanno realizzando ulteriori procedimenti penali, è stato montato un nuovo atto d'accusa contro di me e si è ordinata per la quarta volta la detenzione perché non avevo presenziato all'interrogatorio davanti a giudici, questa volta per 3 attentati di inabitanti delle CCF Cazzeli, Inofottis e al Ministero di Macedonia e Tracia. California! Lo Stato greco negli ultimi anni ha lanciato una nuova tattica di repressione contro i prigionieri anarchici, dividendo in pezzi i rispettivi casi, ha continuato a scrivere ogni volta nuovi atti d'accusa al fine di garantire condanne più lunghe e generalmente più condanne possibili per ciascun caso e per estendere il tempo massimo del nostro soggiorno in carcere. Proprio ora, in questo momento, ci tengono rinchiusi con triple, quadruple e anche sestuple ordini di custodia cautelare. Così, da un lato, è applicata una prigionia preventiva di molti anni senza essere stato condannato al processo, superando gli ostacoli giuridici del recente passato, e dall'altro lato è disposta ad annientarci legalmente con decine di anni di reclusione per ciascuno di questi casi. Per quanto riguarda proprio questo fatto, cioè per quanto riguarda l'inasprimento della repressione legale, è particolarmente importante sottolineare le nostre pratiche antigiuridiche per evitare la trappola di implorare i nostri diritti e i nostri obblighi legali verso lo Stato. Come accade con ogni azione anarchica, anche in questo caso il valore della scelta va a scontrarsi con delle conseguenze, aprendo crepe antistituzionali nella macchina sociale, con la notevole eccezione dei casi in cui emergano opportunità immediate di liberazione, dove la strategia di inganno diretto del nemico superino la sconfitta politica di un disfattismo politico che è data da molti anni. Lo Stato vede che, nonostante la nostra prigionia, non siamo disposti ad alzare una bandiera bianca o a ammorbidire le nostre intenzioni, e invece continuiamo a sostenere e promulgare l'attacco violento contro lo Stato, dentro e fuori le mura, senza un pizzico di pentimento. Pertanto, data questa nostra decisione, lo Stato continua il suo attacco repressivo modificando i suoi strumenti. Catturati dalle unità antiterrorismo e dagli sbirri, continui procedimenti penali in corso sulla base della legge antiterrorismo, le migliaia di pagine di informative, i tribunali speciali e presto le condizioni di carcerazione speciale, dalla repressione poliziesca alla repressione legale avanzata. La repressione dello Stato, cioè la sua decisione di diffondere la paura in ogni modo possibile, guadagna terreno solo quando si trova di fronte all'apatia e alla rassegnazione. Queste sono le opzioni dei codardi e degli stupidi affiliati al complesso autoritario per essere premiati. E per questo la società capitalista si nutre di valori sanguinari di persone incompetenti, avidi e ipocriti, annegati nella confusione e individualizzazione proprie del mondo moderno. È proprio questo noi contrapponiamo l'intensificazione della lotta attraverso cui nascono emozioni libere e rapporti umani liberi, quanto più possibile, dalla cultura dominante. Così credo che, benché prigionieri, non dobbiamo smettere di produrre un discorso anarchico che sia combattivo. Dobbiamo dimostrare il nostro disprezzo alle parodie giudiziarie, comunicare i nostri pensieri promuovendo la solidarietà anarchica che i compagni mostrano fuori le mura. La repressione vincerà solo se riusciamo, se rinunciamo alla battaglia contro tutto questo complesso autoritario. Inoltre, se stiamo cercando il modo per allontanarci con discrezione dalla guerra al potere, se volevamo ottenere qualcosa, l'unica certezza è che lo Stato, nel suo desiderio di correggerci, volentieri ci darà questa opportunità. Tutto quello che otterremo sarà un modo per fuggire dal campo di battaglia di turno, e per questo bisognerà continuare senza stanchezza la lotta contro il sistema sociale. Al di là delle conclusioni politiche che ognuno può avere, l'unica certezza è che quei compagni che desiderano partecipare attivamente alla lotta anarchica dovrebbero studiare gli errori ed essere un passo avanti del nemico, studiando le proprie mosse con molta attenzione e pazienza, per evitare mosse avventate senza che questo porti all'inattività, perché quelli che si trovano intrappolati nel ventre del Leviatano e desiderano rimanere fermi nei loro valori devono farli sputare sangue per obbligarli ad aprire la bocca. Quello che è certo è che l'era della tolleranza dello Stato è finita. Rivendicazione di responsabilità parlando con i fatti. Tornando al tema specifico del testo, relativamente ai nuovi procedimenti e alla citazione, la mia posizione di fronte ai giudici era e sarà la stessa, identica. Mi rifiuto di dialogare con la mafia giudiziaria, mi rifiuto di fare apologie davanti ai miei aguzzini. la posizione è di sputare dritto in faccia all'autorità, ai loro costumi e insistere sul fatto che la lotta continua anche dalle catene della prigionia. La loro repressione si infrangerà sempre nell'ostacolo delle nostre coscienze ribelli, la nostra insurrezione vincerà la paura, il caos e l'anarchia sono inevitabili. Mi assumo la responsabilità politica per la mia partecipazione ai gruppi anarchici incendiari FAI Fuochi all'Orizzonte, FAI Brigata Fuoco alle Carceri e Minoranza Combattiva. Obiettivo di questi gruppi anarchici in concreto è stato quello di contribuire alla condiffusione della violenza rivoluzionaria e dimostrare che si possono compiere azioni anche con i mezzi più semplici e accessibili a tutti. Tutto ciò che serve è la volontà e il desiderio di attaccare quelli che ci opprimono. L'assunzione di responsabilità è un modo per me di continuare a parlare con gli atti anche dalle catene della schiavitù, per difendere l'azione anarchica incendiaria come parte integrante della lotta multiforme, di ridare vita ai testi che sono stati scritti in luoghi che l'ordine stabilito stava cercando di trovare, testi che sono stati accompagnati da tanti bei progetti e speranze, testi che portano dentro di sé una parte di me, parte del mio viaggio nella clandestinità anarchica, e penso che meritano che li difenda politicamente in questa situazione. A parte questo, la scelta di assumersi la responsabilità ha obiettivi politici certi di particolare importanza. In linea di principio mira a sollevare un muro di protezione attorno alle persone care e impedire l'espansione dell'azione penale vendicativa sulla partecipazione ai gruppi suddetti, con il pretesto che il caso rimane irrisolto, che in qualche misura già è passato dal momento che molti dei miei compagni sono accusati di coinvolgimento in questi gruppi. In Italia abbiamo visto che questo serve a poco, perché a Fede Nicola, dopo la rivendicazione per l'azzoppamento all'amministratore delegato Adinolfi del lanciatore nucleare, avevano rivendicato tutto, specificato tutto nel testo rivendicativo, assumendosi solo loro due la responsabilità e dicendo che solo loro due erano parte del nucleo Olga della FAI FRI. E invece poi dopo abbiamo visto che la magistratura ha continuato, visto che non era stata contenta, visto che forse Alfredo e Nicola con la loro rivendicazione gli hanno tolto qualche mese di stipendio statale, sono andati oltre e hanno coinvolto un compagno che poi è stato chiamato in questura a Genova come autore del furto dello scooter con cui Alfredo e Nicola quel mattino sono andati ad azzoppare il pezzo di merda di Adinolfi. Questo per rispondere alle cose che diceva il compagno Nikos Romanos, perché altrimenti poi dopo, alla fine di questa lunga lettura, uno se ne dimentica. Allora, pertanto, al di là della responsabilità politica per la mia partecipazione, assumo anche la responsabilità penale di questi attacchi incendiari, che hanno costituito la base di questa accusa in particolare. La stazione di polizia municipale e guardia urbana a Kipseli, la società di investimento Trastor e la residenza dell'ex ministro dell'economia e della difesa nazionale Yannos Papantonio. Un semplice studio degli indizi contenuti negli atti d'accusa indicano che le azioni specifiche siano state effettuate da una persona. Tanto i video e quanto le testimonianze di tutti i testimoni in ciascuno dei casi si riferiscono ad una sola persona, che ero io, e questo dimostra le mie affermazioni. Quindi ribadisco la mia responsabilità di questi attacchi e sottolineo che non ho partecipato all'incendio dei depositi di autobus né agli attacchi incendiari realizzati da ombre in fiamme. La ragione per cui prendo posizione pubblicamente su questo è perché credo sia importante sottolineare come la polizia usi i nuovi sistemi repressivi attraverso il DNA per coinvolgere i compagni, sia prigionieri che no, creando un'industria su tutti i procedimenti basati sulla pseudoscientifica oggettività del DNA. Ovviamente la mia smentita pubblica non ha nulla a che fare con l'evitare la responsabilità penale, visto che lo faccio contemporaneamente all'assunzione di responsabilità di altri attacchi contro il dominio. Il mio obiettivo è quello di creare un lascito pulito, è quello di mostrare come le guardie stiano piantando le loro magiche sementi per reprimere gli anarchici. Alla polizia è sufficiente conoscere le loro identità per farne un bersaglio. Ne sono esempi importanti Tasos Teoflu e Babis Tsilianidis, ma anche l'accusa contro il fuggitivo Nico Magionis per un esproprio ad una banca. Infine, rispondendo in anticipo alle possibili critiche di coloro che sono in disaccordo con l'atto di assumersi la responsabilità perché credono che facciamo il gioco delle guardie quando entriamo nel meccanismo di rispondere a ciascuna delle accuse, devo dire che una delle ragioni per cui lo faccio è veramente per coprire quelle vere e proprie montature giudiziarie, assumendomi nello stesso tempo la responsabilità per le azioni relative a me e che io sono disposto a difendere. Anche per quest'ultima cosa volevo... Sì, è vero, ci sono molte persone che hanno il viziaccio di criticare la rivendicazione dei compagni che si assumono in carcere, in tribunale, si rivendicano il loro progetto, il loro percorso, le loro azioni. Però io non ci spenderei mai più di una parola su certa gente, perché io penso che questa gente sia più contento che non ci fossero rivendicazioni, perché la cosa deve rimanere così nel vago, così nel vago, così chiunque può andare a farsi bello davanti a chiunque, lasciando capire, lasciando intendere sono gli anarchici, allora potrei esserci anche io perché sono anarchico, però non te lo dico, non te lo dico, però te lo faccio capire perché sono anarchico. E quindi se tu non rivendichi questa azione come l'avessi fatta pure io, e intanto io sto seduto col culo sulla sedia e non le faccio queste azioni. E questo quindi bisognerebbe tenere presente questo quando certa gente parla contro le rivendicazioni, specialmente fatte dai compagni che in un'aula di tribunale o dentro un carcere ne fanno. Ora ci ascoltiamo un altro brano e poi continuiamo a leggere il testo di Nikos Romanos. We'll be right back. E ci avviamo verso l'ultimo capitolo di questo lungo testo del compagno Mirkos Romanos. Io sto morendo, io non ce la faccio più, proprio, cioè, gocciolo dappertutto, anche nelle unghie dei piedi, gocciolo. Allora, sì, fa schifo, però è così, cioè, l'aria viziata in estate si fa sentire ancora di più. Do uno spunto per chi vuole parlare di controinformazioni fatte nelle camerette con aria viziata. Sudo, bevo, non bevo, oggi non bevo, però altre volte beviamo. Però, vabbè, parliamo di cose più serie, sulle azioni che sono state fatte. L'azione della FAI, fuochi all'orizzonte, è iniziata con il sabotaggio delle linee di tram in solidarietà con gli scioperi della fame, allora in corso nelle carceri e continuata con attacchi incendiari contro obiettivi statali e capitalisti, sempre in solidarietà con i prigionieri anarchici. L'azione della FAI, Brigata Fuoco alle Carceri, ha a che fare con il tentativo di incendio di una società di investimenti che è stato fatto in risposta all'isolamento imposto dall'anarchico Socrates Tsifkas per il suo rifiuto di collaborare con le guardie durante la perquisizione corporale nel carcere di Diavata. L'azione della minoranza combattiva era diretta esclusivamente contro la proprietà privata dei nemici della libertà. Il mio obiettivo era quello di dimostrare che il nemico non è solo nelle rappresentazioni del dominio, ma anche nome e indirizzo, colpendo le persone che per la decisione prese si trovano sul versante delle controrivoluzioni, evidenziando come con mezzi semplici e accessibili si può restituire nei loro ambienti un pezzo di terrore che noi riceviamo da lì. La minoranza combattiva aveva preso di mira casa e veicoli dei politici Maria Cazza, Janos Papantonio, e in collaborazione con i compagni del circolo di delinquenti, giornalisti Economias, Yorgos Petros Kariostis, Adonis Liaros, Christos Konstas e Adonis Skylakos, io a leggere i numeri greci, che è un fascista che ha partecipato al pogrom contro gli immigrati. Il fuoco che si è acceso è sempre stato complice di tutti i prigionieri anarchici cercando di sciogliere il ghiaccio della galera e scaldare i loro cuori. È logico che i comunicati di questi attacchi riflettono anche una parte delle mie percezioni del mio viaggio verso nuovi sentieri di pensiero sovversivo. Credo che l'azione di questi gruppi specificamente incendiaria abbia contribuito alla marcia inarrestabile dell'insurrezione anarchica. Gli attacchi incendiari sono parte integrante della lotta, in quanto sono facili da fare per i giovani compagni, mantengono acceso il fuoco dell'ostilità bellica e contribuiscono alla diffusione della violenza anarchica. Contribuiscono con il loro granello di sabbia a consolidare la guerriglia urbana anarchica e causare turbolenze al buon funzionamento del sistema. Naturalmente gli incendi devono avere un'affinità politica con tutti gli altri aspetti della violenza anarchica, bombe, omicidi politici, scontri violenti di massa, assalti ed incursioni, per creare un fronte unico d'azione, incontrollabile e pericoloso, che l'unico limite che si ponga non sia altro che la totale distruzione di ciò che esiste. La mia ribellione contro il crimine permanente che la civiltà dominante commette contro le nostre vite non è stato avviato limitato dall'attività di questi gruppi incendiari. La stagnazione è condannata a morire in un mondo di velocità. Evoluzione significa pensiero critico e sganciamento ideologico da tutti i dogmi. Azione continua, sperimentazione, creazione e distruzione. L'unico compromesso attorno al quale la decisione finale avviene non è altro che la lotta per la rivoluzione anarchica fino a sorgere della nostra era, fino alla fine. Ponendo fino alla parte relativa alla mia assunzione di responsabilità, è anche importante ricordare l'errore che ho fatto. Ho lasciato la mia memoria USB nella casa in cui vivevo, invece di distruggerla a tempo debito. L'ho fatto credendo ingenuamente che il male non sarebbe venuto così all'improvviso, in realtà rimandando a domani quello che si potrebbe fare subito. Questa è la mia posizione sulla nuova tornata di procedimenti penali contro di noi. Le lotte di liberazione sono strade diverse che convergono in una lotta. Un incendio di sensazioni calde bruciano nello stomaco, nella mobilità compulsiva di questo tempo che corre ad alta velocità. Le maglie della repressione e oppressione sono inesorabilmente sempre più fitte, ma le loro armi, i loro sacerdoti sono solo nella paura. Adriano Antonacci, riflessioni sparse sul presente, sul sentiero di guerra. Finendo questo testo, e io dico sarebbe anche ora, vorrei, no, intanto ci sono altre due o tre pagine, vorrei ragionare su alcune cose sulla situazione attuale. È interessante il testo, mi raccomando, cioè, a parte sono io che leggo e mi ammazzo, però sto cercando le parole per descrivere con precisione le caratteristiche principali di questa mostruosità: il controllo sociale totalitario sui corpi e sulle menti, la crisi economica, la peste tecnoscientifica, gli interventi militari e polizieschi, i conflitti tra i vari interessi geopolitici, gli incidenti diplomatici, il malcontento diffuso, la brutale violenza, la confusione diffusa e il disorientamento di massa. Siamo ad un punto cruciale di sviluppo storico, sono state pubblicate molte analisi sulle forme in cui lo Stato si ristruttura e si fortifica a tutti i livelli, così come sulla tendenza del capitalismo ad espandere la sua militarizzazione di là di terreno sfruttato del terzo mondo sino all'interno della metropoli, rispondendo così all'instabilità politica che si diffonde rapidamente. Al di là delle diverse parole e divergenze di alcune riflessioni, più una convergenza di concetti sulla criticità del nostro tempo, il problema è che non siamo ancora in grado di raggiungere l'altezza delle circostanze e delle sfide di oggi, e siamo rimasti bloccati in credenze che alimentano il ciclo di inerzia e introversione. Personalmente penso che sia necessario organizzarci attraverso la creazione di reti e fronti d'azione coordinati sulla base di accordi politici minimi, incoraggiare varie campagne di azioni multiforme contro le punte di lancia della tirannia moderna e rispondere agli attacchi repressivi nelle forme che meritano. Abolendo la burocrazia dell'organizzazione centrale, armiamo le nostre iniziative e ci uniamo o creiamo diversi fronti di azione dove lo riteniamo necessario. Sia che si tratti di temi di attualità immediata, ad esempio le carceri tipo C, sia di argomenti che riguardano la lotta anarchica in senso più ampio, ad esempio l'antifascismo. Allora, facciamo un attimino una pausa su quest'ultimo pezzo che abbiamo letto. Non mi ci ritrovo su un cazzo. Allora, la creazione di reti e fronti di azione coordinata sulla base di accordi politici minimi è proprio la cosa più delirante che può esserci. A parte il testo bello fino ad ora, ma ora inizia ad arrivare il delirio, perché secondo me creare fronti d'azione con accordi politici minimi allude ad unità con gente che comunque sono nemici per tutto il resto delle cose che pensiamo e che vogliamo. Quindi già esiste e già è stato creato abbastanza attraverso l'aspetto colonizzazione, e non dico che è stata voluta dai compagni che hanno fatto tipo il progetto Fenix oppure le prime rivendicazioni a nome con l'acronimo FAI FRI, però già si sta allargando tanto, cioè già è diventato uno spettacolo tutto questo. Poi in più andando a creare vari fronti con accordi politici minimi vuol dire che già le azioni parlano meno rispetto ai testi, vuol dire che con gli accordi politici minimi i testi non diranno più un cazzo. La stessa cosa per quanto riguarda, si tratta di temi di attualità immediata, ad esempio le carceri di voci o argomenti che riguardano la lotta anarchica in senso più ampio e indica l'antifascismo. Questa è un altro delirio, perché argomenti che riguardano la lotta anarchica in senso più ampio non è l'antifascismo. Se dici la lotta anarchica in senso più ampio, anarchico, ti ha detto già tutto. Quindi non c'è bisogno di andare a specificare l'antifascismo, perché l'anarchico è antifascista, è anticomunista, è antidemocratico, è anti tutto, cioè è anti-autoritario l'anarchico. Quindi sta cosa che la lotta anarchica in senso più ampio venga riguardato come l'antifascismo, a me fa praticamente cagare. Mi prendo io la responsabilità nel testo di un compagno che arriva dal carcere, però a me sta cosa fa attestare a quanto schifo è come quello di creare fondi d'azione coordinati su base di accordi di politici minimi. Andiamo avanti nella lettura. Il tentativo di rompere il ciclo di autoreferenzialità si deve cercare di collegare tutti i fuochi accesi contro la civilizzazione, della manifestazione combattiva, le assemblee, gli scontri e gli attacchi a mano armata, in un tentativo rivoluzionario di estendere l'anarchia combattiva. E questo ovviamente lo vai a fare con i comunisti, lo vai a fare con chi ha il minimo di accordi politici, boh, perché sono più le cose che ci uniscono che quello che ci divide. E a partire dal momento in cui il nostro obiettivo non è altro che l'attacco frontale al sistema, tutti gli sforzi che si fanno, a prescindere dalla tendenza politica, dovrebbe essere collegati dalla visione della libertà totale. Naturalmente questo non invalida la nostra critica dei fatti, conferma semplicemente che quando la critica si combina con interventi dinamici diventa più efficace, perché mira alla diffusione del pensiero rivoluzionario per coloro che deviano dalle dottrine prevalenti e sono alla ricerca di modi per scontrarsi con l'esistente. Praticamente in queste tre righe viene cancellato tutto quello che è stato scritto prima e quindi viene criticato dalla stessa persona. La prospettiva di collegare i nostri desideri sta nelle unioni tra individualità libere che si rendono collettive percorrendo insieme le strade caotiche della distruzione creativa. In questo sforzo ci si deve scontrare politicamente con le reazioni isteriche dell'ala riformista del movimento anarchico, che è pronto a firmare patti di lealtà allo Stato, ricalcando la competizione politica a quegli argomenti che, dopo ogni azione rivoluzionaria armata, i partiti parlamentari cercano per emettere condanne. Abbiamo visto come gli atenei anarchici scrivono frasi come terroristi e assassini, che riproducono il linguaggio e gli argomenti del dominio. Come si è visto, non solo il dominio rimane terrorizzato, lo è anche l'ala riformista del movimento anarchico, temendo che forse i poliziotti assaltino i loro localini. Sembra che tutti questi preferiscano il ruolo della vittima eterna, vale a dire un masochismo politico che si eccita a mostrare foto di volti tumefatti e corpi pugnalati dagli attacchi fascisti e della polizia. Per finire, lotta multiforme significa lottare con tutti i mezzi, niente di più, niente di meno. Coloro che sono commossi dalle migliaia di suicidi, vittime della guerra economica in tempo di pace, per i migranti che annegano alle frontiere marittime, per i corpi smembrati nelle guerre espansioniste delle superpotenze capitaliste, per gli animali scoiati vivono dalle industrie multinazionali, per la violenza omicida della polizia, per tutto ciò che sta accadendo in questo sistema. Eppure si scandalizzano per i cadaveri di due fasci. Il problema è loro. E qua gli do ragione. La rivoluzione è una guerra costante, con una vita senza la schiavitù, una guerra che, nonostante l'eventuale ritirata temporanea, non smette mai di combattere e di lasciare aperte le possibilità per le nostre scorribande, piccole e grandi. Non è con piacevoli passeggiate o con discussioni filosofiche sotto l'influenza dell'alcol che prenderemo per il collo quell'invisibile fantasma chiamato società capitalista. Inoltre ci sono già troppi apprendisti stregoni dell'inganno politico, tra i più abili e ossequiati. Inoltre, quando sopra mira a dimostrare che il bipolarismo tra nuova e vecchia anarchia è falso, e l'unico vero ed attuale dilemma è con i ribelli che lottano o con i politicanti della capitolazione. Pertanto l'anarchia combattiva si distacca da questa generazione, semina rabbia in ogni angolo del mondo, la rabbia espressa dalle voci determinate in una manifestazione solidale, con il fuoco che brucia i templi del denaro e i simboli della ricchezza, con attacchi individuali ai funzionari governativi e ai loro cani in uniforme, con le macerie lasciate da un artefatto esplosivo che esplode nello stato maggiore dell'ordine stabilito. Qua volevo fare un altro appunto su rompicoglioni, lo so. Allora, rileggo la citazione. Inoltre, quando sopra, mira a dimostrare che il bipolarismo tra nuova e vecchia anarchia è falso. E l'unico vero ed attuale dilemma è con i ribelli che lottano o con i politicanti della capitolazione. Io mi ricordo che il termine New Anarchy è uscito proprio da quelle parti, è uscito da quelle parti e è più volte citato dal compagno che scrive questo testo, quindi ora, come ha fatto prima, che diceva che gli accordi minimi politici erano difficili e poi dopo ha ribaltato tutto, ora sta ribaltando anche la New Anarchy, ma tanto New Anarchy è tanto proclamata per mesi e per un anno attraverso scritti e comunicati, ma sarà pure la zona età, uno da solidarietà ai compagni, però comunque vanno criticati, non va fatto il piedistallo ai compagni, non è che i compagni qualsiasi cosa che dicono dal carcere devono essere idolatrati, i compagni sono chiusi in carcere, sono compagni come noi, sono persone come noi e non hanno bisogno di altarini, non hanno bisogno di protezione, quindi vanno anche criticati, e quando dicono le puttanate vanno anche criticati, tutti insieme, liberi, fuggitivi e prigionieri, continuiamo la nostra lotta per la distruzione della società capitalista, segni di solidarietà, di ribellione e di amore a tutti i compagni e amici della rete dei prigionieri in lotta, agli anarchici italiani in vista della settimana di solidarietà internazionale dal 16 al 24 maggio, a combattenti anarchico Claudio Lavazza, Monica Caballero e Francisco Solar, ai compagni del Casa Security e a Tamara Sol, a sabotatore mai pentito Marco Kamenich, ad ogni prigioniero anarchico in tutti gli angoli del mondo che inavvertitamente ho dimenticato di citare, con i miei pensieri vicino a tutti gli anarchici ricercati e perseguiti, forza a coloro che armano la loro negazione del sistema, onore sempre a Sebastian Oversluy caduto in battaglia durante una rapina in banca, onore sempre a tutti i caduti della guerra rivoluzionaria, viva l'anarchia. E poi c'è un post scrittum di un'altra pagina, post scrittum, quello che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è un segreto in banca, quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole, quello che non ho è di farla franca, quello che non ho è che non mi manca, quello che non ho sono le tue parole per guardarmi il cielo, per conquistare il sole, quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti, quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro dove sono partito, quello che non ho sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è la prateria per correre più forte della malinconia, quello che non ho sono le mani in pasta, quello che non ho è un indirizzo in tasca, quello che non ho sei tu dalla mia parte, quello che non ho è di fregarti a carte, quello che non ho è una camicia bianca, quella che non ho è di farla franca, quella che non ho sono le tue pistole per conquistarmi cielo, per guadagnarmi sole, quello che non ho, Fabrizio De André, quello che non ho. Dedicato ad Adriano Antonacci, anarchico italiano che è accusato di attacchi incendiari contro la tecnoscienza e lo stupro della natura, che presto verrà processato in videoconferenza a maggio 2014, firmato Nikos Romanos. Poi ci sono le note, però le note ve le andate a leggere voi, perché tocca leggere il testo e andare a vedere le frasi dove sono le note. Allora, appuntamento a lunedì con controinformazione, lettura dei sabotatori di Edward Ebbey, quindi ci sarà Marcello, e lunedì per le riflessioni di il compagno Hit che volevamo leggere oggi, però non ci si fa più, siamo andati oltre, sto da solo a leggere, c'ho una gola secca così, e quindi appuntamento a lunedì ore 17 ore 15:45 per chi vuole ascoltare o la prediretta oppure la playlist musicale. Radio Azione. Radio Azione. Radio. letture, provocazioni, musica. Attenzione, punto, punto. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Radio Azione. Contro informazione, letture, provocazioni, musica. Quello che non ho è la voce. Allora, Radio Azione. Punto org.